Allah, salapa saie, l'afflita dolorosa de Maria, oi de Maria, l'afflita dolorosa de Maria. Vede, estracinate, miezzana chiorma de cavalleria, miezzana chiorma de cavalleria. Corri, le verginelle, scita bede Gesù, cai è malate, scita bede Gesù, cai è malate. Sopra gli tesse fatte, lucuciniele de spine granate, spine granate, lucuciniele de spine granate. Alla l'amata lune, cugghielo sangue naia raffine, cugghielo sangue naia raffine. Salla botta de lancia alla parte sinistra del cuore, oi del cuore, alla parte sinistra del cuore. Sadna stendardero la tromme nu selente de sonaie, oi de sonaie, la tromme nu selente de sonaie.